Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Quanto gli oggetti, i prodotti del Made in Italy raccontano la nostra storia e rispecchiano le trasformazioni sociali, economiche e di costume del nostro paese. Moltissimo, lo testimonia una mostra che nel primo dei nostri approfondimenti ci accompagnerà alla scoperta di decine di storie di oggetti, uomini e imprese. Seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend. Oggi parliamo di consumi magici, quando trucchi ed effetti speciali fanno tendenza. Prima però ci sono come sempre le notizie e curiosità di questa settimana. Bentornato Carosello. 36 anni dopo l'ultima puntata, lo storico siparietto pubblicitario torna da domani nella sua versione Reloaded. La sigla, seppur rivisitata, sarà la stessa del carosello originale. Sarà l'India la prossima terra di conquista del fast fashion. Il gigante svedese H&M ha annunciato di voler aprire 50 negozi per un investimento complessivo di 100 milioni di euro. Il gruppo nordico punta così a diversificare, scommettendo sulle aree extraeuropee meno penalizzate dalla crisi. Per la prima volta nella storia, un marchio svizzero di orologi di lusso passa in mani cinesi. Corum, marchio storico delle lancette di lusso, è stato infatti acquistato dal gruppo cinese China Aidian per oltre 70 milioni di euro. Dal 17 al 19 maggio torna alla Fortezza d'Abasso di Firenze Terra Futura, la mostra convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un modello diverso di sviluppo per nuovi modi di vivere, consumare, coltivare, abitare, produrre, viaggiare, comunicare e governare. I messaggi di chat generati da app come WhatsApp o GTalk nel 2012 hanno superato i vecchi SMS. Secondo i calcoli degli analisti, lo scorso anno sono stati scambiati 19 miliardi di messaggi di chat, mentre gli SMS si sono fermati a 17,6. E in futuro il gap dovrebbe aumentare ulteriormente. Boom di acconciature alla Thatcher in Inghilterra. L'inconfondibile taglio di capelli della Lady di Ferro, scomparsa l'8 aprile scorso, è diventato un modello richiestissimo nei saloni più alla moda. La borsa della spesa. Milano, un imprenditore che da circa 20 anni si è specializzato in cavi di gomma per telecomunicazioni, Giovan Battista Pirelli, nel 1890 produce la prima gomma cava per velocipedi e 3 anni dopo la sua fabbrica assume la dimensione di una grande industria. In un'azienda lontano da Milano, in Piemonte, cercano disegnatori tecnici. Fanno macchine per scrivere, calcolatrici, non esattamente il mio campo, ma dicono che lavorare lì sia una bella esperienza. Questo metodo di organizzazione dava molta libertà anche di movimento alle persone, che potevano interrompere, fare soste durante la giornata di lavoro. Qui all'Olivetti siamo contenti. Bianca può lasciare anche il bambino all'asilo aziendale, mentre io lavoro al reparto disegno tecnico, al fianco di grandi progettisti, designer, architetti, ingegneri. Per fare avanti e indietro con la ditta mi sono comprato una motoretta. Ho disposto simmetricamente una persona, 2 ruote piccole. Ho messo un parafango dal sedile che copre la ruota, ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore, automaticamente la forma nasce. Erano solo alcune delle storie che si possono ascoltare, scoprire e ripercorrere nella mostra Che storie, oggetti, miti e memorie dai musei e dagli archivi di impresa. Mostra promossa dal Comune di Milano e da Musei Impresa fino al 12 maggio al Palazzo della Ragione di Milano. Un viaggio nel Made in Italy attraverso le collezioni delle più importanti aziende del nostro paese. 100 anni di storia attraverso fotografie, filmati, oggetti, prototipi, bozzetti, manifesti che raccontano i prodotti simbolo della nostra storia e del nostro immaginario collettivo. Dai motori alla moda, dal design al cibo. Ne abbiamo parlato con il curatore Davide Ravasi. Spesso questi oggetti, questi prodotti, questi marchi, che possono andare da Martini, Peroni, Branca e Campari nelle bevande, a Alfa Romeo, Ducati, Vespa,

a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. Di nuovo in studio con Essere Avere, quale introduzione musicale migliore di questa per il focus sui trend della settimana dedicato ai consumi magici. Oggi parliamo allora di magia e consumi, dai libri ai film, passando per serie e programmi TV, dagli spot ai prodotti stessi. La magia e i riferimenti al mondo magico sono una tendenza in evidenza ormai da tempo. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memeti Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Una tendenza in evidenza da tempo, dicevamo, ogni anno però si arricchisce di nuovi spunti e nuove contaminazioni trasversali a moda, design e comunicazione. Patrizia. Non possiamo che cominciare da lui, Harry Potter, uno dei grandi fautori della riscoperta della magia e del suo trionfo nell'immaginario. Harry Potter, il romanzo notissimo fantasy in 7 volumi della scrittrice inglese Rowling, pubblicati tra il 97 e il 2007 sulle avventure di questo gruppo di amici maghi, ambientate principalmente alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Dall'Inghilterra questo fenomeno letterario dilaga, l'intera serie, pensate, vende 480 milioni di copie nel decennio, viene tradotta in 73 lingue, nel 2001 esce il film che sbanca i botteghini di tutto il mondo. L'influenza culturale su ragazzi e adulti è stata molto forte e in campo musicale, per esempio, ha generato un grande movimento negli Stati Uniti, dato vita a un vero e proprio nuovo genere musicale, il cosiddetto wizard rock, il rock dei maghi, di cui fanno parte 750 gruppi che si esibiscono in librerie, biblioteche e scuole. Il più popolare e il primo si chiama Harry and the Potters. Tutti senza distinzione prendono ispirazione da questo universo magico potteriano. Il merchandising a tema naturalmente ha invaso il mercato e a fine 2012 a Londra, nella mitica stazione di King's Cross, la Warner Bros. Ha aperto un negozio per monomaniaci potteriani con l'insegna binario 9 3/4, un luogo che già da molti anni attraeva moltissimi fan, alimentando uno specifico turismo che ora tra l'altro avrà un nuovo luogo di culto, il parco a tema giapponese a Osaka, attesissimo, che aprirà a fine 2014 e che segue quello già ultimato di Orlando negli Stati Uniti e quello appena avviato a Hollywood dalla Universal. Restiamo al cinema. Due titoli usciti quest'anno si inseriscono nella fortunata corrente magico-illusionistica: il grande e potente Oz di Sam Raimi, basato sul famoso romanzo di Baum, Il meraviglioso mago di Oz, che qui è in chiave prequel, e secondo titolo, film d'animazione, Kiki, consegne a domicilio di Hayao Miyazaki, il cui titolo originale più esplicito era Le consegne espresse della strega. Arti magiche e stregoneria ben si prestano anche a parodie, è il caso del film L'incredibile Burt Wonderstone, sottotitolo Abracatastic, è uscito a marzo negli Stati Uniti e rende appunto volontariamente ridicolo questo mondo, rovesciandone tutti i cliché. Sui superpoteri, dunque sui poteri magici della mente, un tema di grande fascino, la serie televisiva The Mentalist, successo mondiale di pubblico, prodotta dal 2008. Il protagonista aiuta una squadra investigativa a risolvere casi difficilissimi grazie alle sue doti da sensitivo mentalista, appunto, capace di memorizzare insignificanti dettagli e però ricomporli dando loro senso e risolvendo i casi. La CBS ha da poco confermato la produzione della sesta stagione. Anche i brand recuperano nelle loro narrazioni un po' di magia, in tempi in cui una delle parole chiave è storytelling, raccontare delle storie, diventa facile anche puntare sulla sospensione dell'incredulità, come ha fatto Esselunga, che in maniera esplicita con lo slogan La magia della convenienza, il cortometraggio firmato dal regista Tornatore, già nel 2011 raccontava, documentandoli, tutti i passaggi della filiera dei suoi prodotti, dalla raccolta nei campi al bancone del supermercato. Quindi un vero e proprio film caratterizzato da un'atmosfera magica, appunto, un modo interessante e originale per veicolare l'informazione tecnica sull'origine dei prodotti, che sappiamo essere un elemento sempre più importante oggi per i consumatori. La tendenza ha già ovviamente il suo programma TV di riferimento, è Dynamo, Magie Impossibili, in onda su D-Max. Tenetevi forte. Vi porterò a fare un viaggio nel mio mondo. Non ho mai visto niente di simile. Non riesco neanche a spiegarlo. Incredibile. Dal cuore delle favelas di Rio de Janeiro. Imbroglione! Alle mille luci della strip di Las Vegas. È una follia. Davvero? Non ho mai visto niente di simile prima. Porterò un po' di magia nella vita delle persone. Ma come diavolo ha fatto? Vi farò conoscere l'arte dello stupore. Il mio nome è Stephen Frame, ma molti mi chiamano Dynamo. Patrizia, dall'illusionismo puro come quello del famosissimo David Copperfield, artefice del suo rilancio in chiave moderna e spettacolare, all'illusionismo digitale, tecnologico, di cosa si tratta? Sì, c'è un caso interessante di mago contemporaneo, l'illusionista digitale appunto Marco Tempest, che è un mago tecnologico che ha sostituito frac, cilindro, bastone, fazzoletti in seta e colombe con un look molto più minimale, appunto contemporaneo, e che fa esperimenti e magie nei talk show, addirittura in programmi televisivi di divulgazione scientifica come TED Talks. È un mago che si fa aiutare non dalla bacchetta magica ma dalla tecnologia, in particolare dalla realtà aumentata e dal Kinect di Microsoft. Marco Tempest lavora sulla connessione tra magia e teatro e, mentre lo racconta, lo si vede nel video in rete piuttosto suggestivo, fa sparire e comparire oggetti, compreso se stesso, interagisce con ologrammi lasciandoci a bocca aperta proprio come i veri maghi di una volta. Restando in tema di tecnologia magica, con riferimento agli ambienti di lavoro, ma non solo, Microsoft sta investendo nella tecnologia, in una nuova tecnologia che consentirà di fare riunioni a distanza con la versione ologrammatica delle persone coinvolte. Quindi niente schermi, non sono videoconferenze, ma le persone saranno sedute lì presenti, tridimensionali, semplicemente non in carne e ossa. La chiamano telepresenza e pare rivoluzionerà il lavoro, la comunicazione, anche il rapporto tra aziende e clienti in tutto il mondo. Staremo a vedere quanto questa magia cambierà le nostre giornate, la vita, il lavoro e il consumo. Anche il mondo dei gadget si ispira naturalmente a maghi e magia. In vendita su Amazon, per esempio, il telecomando a forma di bacchetta magica, si chiama Chimera Magic Wand, non ha pulsanti ma ha 13 movimenti a cui associare il cambio canale, il volume, l'accensione, lo spegnimento, eccetera. L'oggetto è bellissimo, venduto con un manuale di istruzioni per l'uso in stile, ovvero una sorta di manoscritto miniato con pagine ingiallite e scritte svolazzanti. Qualche esempio di prodotti magici disponibili sul mercato: il primo, Egyptian Magic, una crema dai poteri leggendari. In un mercato, quello dei cosmetici, in cui ogni prodotto grida al miracolo, questa crema, che in qualche città si trova anche nei negozi di cibo perché è totalmente naturale, si propone con una storia addirittura mitologica legata ai suoi poteri. Poi c'è il tappeto magico, che cambia colore a seconda della temperatura esterna e a suo modo segue le stagioni cambiando i propri toni grazie a dei sensori. Si chiama appunto Season Carpet, la designer è una norvegese. E ancora la sedia magica di Davide Conti, che sembra stare in piedi senza le gambe posteriori o anteriori a seconda dei modelli. È di fatto un'illusione ottica, ma voluta dal designer italiano, che ha utilizzato un materiale plastico trasparente che appunto fa un effetto di irreale sospensione. Stessa idea per il tavolo Levitable, che sembra appunto lievitare nell'aria, come dice il nome, con gambe invisibili, dell'ungherese Peter Koren. E infine l'armadio del mago, divertente, con tanto di coltelli e spade conficcati sui lati, che all'interno fungono da mensole su cui appoggiare abiti e scarpe, la sagoma da trafiggere sulle ante esterne, progettato dal brasiliano Rafael Morgan. Anche il revival dei tarocchi è degno di nota. Documentare con fotografie le proprie letture quotidiane dei tarocchi su Instagram, per esempio, è una pratica sempre più diffusa tra la grande community di appassionati di questo rituale, che entra anche nelle istituzioni museali. L'artista spagnolo Paco Cao, nella sua ultima opera Eternal Rest, ha usato i visitatori del MoMA come medium, mettendoli in contatto, dopo aver letto loro i tarocchi, con personaggi famosi, da Kurt Cobain a Michael Jackson, usando speciali tarocchi. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo a Tokyo su consumi e magia? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Dunque, Naoki Ono e Yuki Yamamoto sono un architetto e un designer che insieme hanno dato vita allo studio Yoi, YOY, con un approccio al design decisamente originale. La loro gamma di prodotti, infatti, gioca con l'illusione e la percezione degli oggetti nello spazio, con l'intento di indurre meraviglia e stupore negli occhi di chi li osserva. In pratica, creano piccole opere di magia, come un lampadario che sembra ondeggiare pur rimanendo immobile, o un vassoio che rimane stabilmente in bilico sul bordo del tavolo. Tra la produzione più recente c'è Canvas, una cornice di legno e alluminio coperta da un tessuto su cui è stampato un divanetto rococò. Quella che sembrerebbe dunque solo una stampa decorativa è in realtà una vera seduta. Se poggiata a terra e inclinata contro il muro, infatti, ci si può davvero accomodare grazie al tessuto elastico che si adatta al corpo di chi vi siede. Ma ancora più suggestiva è Peel, una lampada a parete fatta semplicemente da un triangolo luminoso che aderisce all'angolo tra due muri e un elemento curvo in plexiglass che dà l'impressione che in quel punto la parete si stacchi, si sbucci, da qui il nome, svelando l'accesso a una dimensione parallela o un mondo fantastico. Grazie Alessia. Patrizia, l'illusione, la magia e la sua dimensione onirica, lo abbiamo sentito, sono elementi che continuano e continueranno a fare presa nell'immaginario collettivo? Sì, perché hanno a che fare con il fascino delle realtà parallele, con l'immaginazione di mondi alternativi, che sono un'attività che fa bene, un'attività lenitiva, soprattutto in tempi come questi, oltre che intrattenitiva. Quindi, oltre una certa misura, è un'attitudine che sottrae energia alla progettualità vera, ma è compensativa, costa poco, niente, è divertente e quindi è un po' il gioco della proiezione nelle vite degli altri. È tutto anche per questa settimana, veniteci a trovare sul sito radio24.it e sulla nostra pagina Facebook in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.